Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. All'improvviso, dal nulla, anzi, dalla curva a valle, sbuca un ciclista che sale velocemente alzato sui pedali. Noi lo guardiamo inebetiti. Lui ci passa accanto fresco come di frigorifero. Ci osserva e grida: "You need some help?" Ligabue dice: "Siamo chi siamo. Io sono Riccardo Bonelli e vivo a Borgo Abugiano, nella meravigliosa terra di Toscana. Secondo l'anagrafe ho 40 anni, tanti per un ciclista, forse troppi." Siamo fiduciosi a bordo. Il vento è dalla nostra parte e ci spinge dolcemente verso Cape Sable Island. Le boe ci guidano. Ora che la nebbia si è sollevata, riusciamo anche a vederle, oltre che sentire il suono intermittente e regolare dei nautofoni. Ci vuole poco perché il buon umore regni a bordo, sfiorando l'euforia quando finalmente intravediamo il faro che si erige sul punto più a sud dell'isola. È fatta, pensiamo. E sull'onda dell'entusiasmo, mentre stiamo raggiungendo l'allineamento con Cape Sable, tenendoci a debita distanza dalla costa, ci concediamo un sorso di ottimo rum Captain Morgan, tenuto in serbo per l'occasione. Però, evidentemente, qualche nereide deve avere ritenuto il nostro atteggiamento oltremodo vanaglorioso e ha deciso che l'oceano non aveva ancora concluso la lezione che meritavamo. Sono le 16:10, quasi 11 minuti in punto. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia. Il programma è Voi siete qui. Ogni giorno vi racconto una storia, la storia precisa di una persona, un episodio che ha a che fare con lui. La condivido con voi, la condividiamo ovviamente sui social, sul sito di Radio 24 e anche via podcast. Quello che vi ho appena letto però è un racconto che introduce di fatto una giornata dedicata ai racconti di mare, dedicata ai racconti di nautica. Ce l'ha mandato Martina e la giornata di cui vi sto parlando già da qualche giorno sarà il 5 di ottobre, cioè domenica, non questa, quella dopo, a Genova, al Salone Nautico, visto che Radio 24 è lì ospite e partner e quindi ci saranno gli stand della radio, ci saranno dei programmi in onda in diretta da lì, compreso il nostro, questo però mercoledì 1 ottobre. Ma vi dicevo, il 5 di ottobre, non in diretta radiofonica, ma solo live dal vivo alle ore 17 dal Salone Nautico di Genova, noi raccontiamo storie di mare. Un piccolo live speciale per l'evento, quello che di solito facciamo a fine stagione, lo facciamo lì, che vi ripeto è il 5 di ottobre alle 17. Per accreditarvi gratuitamente e quindi entrare gratuitamente anche al Salone Nautico di Genova, che non è poco, ci sono 150 posti che stanno esaurendo, andate sul nostro sito radio24.it, cercate Voi siete qui, speciale live al Salone Nautico di Genova, altrimenti a breve Margherita Ina posta anche il link direttamente sul nostro profilo Facebook, che è Voi siete qui Radio 24. Questo per quanto riguarda live del 5 di ottobre, che ricordo è domenica, non questa, quella dopo. Torniamo alla storia di oggi, perché appunto non abbiamo moltissimo tempo, dobbiamo raccontare un sacco di cose. La storia di Riccardo parla di un uomo che a un certo punto appare, non dico che ti salvi la vita, però ti dà una mano e di fatto diventa un uomo della provvidenza. 349-238-6666, un po' tutti ce l'abbiamo avuto, un po' tutti ci è capitato. Se vi è capitato davanti agli occhi un uomo che vi ha salvato in qualche modo ed è stato il vostro uomo della provvidenza, 349-238-6666, questa è la storia di Riccardo. Non ho mai posseduto un telefonino. Quando sono a casa o al lavoro ho questo raro potere che una volta possedevano tutti, di donare attenzione solo a quello che sto facendo in quel particolare momento, oppure alle persone con le quali sto parlando. Chi mi circonda non capisce mai fino in fondo la mia avversione verso la telefonia mobile e mi chiedono: "Ma senza cellulare come faresti se ti succedesse qualche cosa di notte, se avessi un incidente, se ti si fermasse la macchina in un bosco o in una strada di montagna, se cadessi in un burrone?" La mia risposta, dopo i logici scongiuri, è sempre spavalda ed è sempre la solita. "Guarda, stai sicuro. Se dovesse succedermi qualcosa, in un secondo arriverebbero ad aiutarmi le schiere del Signore." Ed è difficile da credere, ma una volta ho visto realizzarsi quello che da tempo avevo a parole prospettato. Sono credente, non sono praticante, credo in quello che sta lassù, ma non credo in tanti di quelli che lo rappresentano qua giù, il nostro signore, diciamo. Io sono un cicloamatore, scarso ma pur sempre un cicloamatore. E un paio di anni fa, in un giorno di inizio estate, con un amico ci stavamo arrampicando su per una bella salita in mezzo ai boschi toscani. Volti rigati dal sudore sotto il sole del mezzogiorno, le spalle ondeggianti, le ruote che si muovono a scatti sull'asfalto irto, mentre le membra sperano nello spianarsi della via per godere di una temporanea tregua dalla sofferenza. A un tratto, e mi scappa un no maremma sudicia, a un tratto dicevo, foro la ruota davanti. Stop. Insomma, è inutile farla tanto lunga, c'è solo da prenderla, come si dice, con filosofia. Ho con me tutto l'occorrente per ovviare il contrattempo. Camera d'aria, chiavette e pompa. Ma è un lavoro che non ho mai fatto e una di quelle cose che in teoria ho imparato a fare, sì, però molto in teoria. Più che altro mi hanno parlato, ecco, di come si fa. Dopo mezz'ora di tentativi vedo che sarà difficile ripartire. Emiliano, il mio compagno di sventura, non mi è di molto aiuto e lui ha con sé un cellulare, ovviamente, ed è intenzionato a usarlo per chiamare qualcuno. Io, cocciuto e fedele fino in fondo alla mia linea, gli dico no. Cercherò ancora di riparare la ruota e in qualche maniera me la caverò, ripartirò. All'improvviso, dal nulla, anzi dalla curva a valle, sbuca un ciclista che sale velocemente alzato sui pedali. Noi lo guardiamo inebetiti, lui ci passa accanto fresco come di frigorifero. Ci osserva e grida «You need some help?» Il ragazzone non parla nemmeno la nostra lingua e io gli domando se è in grado di risolvere il mio problema, lui dice di sì e scende. In breve, il soccorritore vede che la camera d'aria che avevo rimesso io non è adatta. La toglie. Ne prende una che ha in tasca, me la monta con lo stesso sforzo con cui io tirerei giù un bicchiere di rosso durante una buona cena. Emiliano intanto sottovoce mi dice «Guarda la sua bici!» La bicicletta dell'uomo della provvidenza è una bellissima Scott con sopra, sulla canna, la firma Mark Cavendish. Gli chiediamo se è un professionista, ma lui risponde di no. Lavora solamente per la HTC High Road, la famosa squadra ciclistica professionistica, ed è uno degli assistenti meccanici di Mark Cavendish, campione che vive in zona ed è al momento il velocista più forte al mondo. Quella che vediamo è la bici con la quale Mark ha vinto la Milano-Sanremo. Io rimango a secco di parole, a malapena lo ringrazio. Lui non vuole nemmeno che gli paghi la camera d'aria, perché mi dice è il suo lavoro e non gli costa niente. Provo a offrirgli una bevuta, una birra nel paese vicino, ma lui rifiuta perché ha un appuntamento ed è già in ritardo. Ci saluta e si rimette in strada. Ha davvero un altro passo rispetto a noi e non riusciremo mai a stargli dietro. Era un ragazzone robusto, alto, un tipico anglosassone, biondo, rasato. Ora, l'aspetto fisico magari non importa tanto. Rimontiamo in sella, ma non siamo più i soliti di prima. Siamo cambiati. Procediamo come per dirigerci a un picnic oppure per andare a messa. Io sono pieno di pensieri. Invece di prendere fiato, predico e tesso le lodi del Signore che in un momento di difficoltà mi ha inviato addirittura il meccanico di Cavendish, futuro campione del mondo di ciclismo su strada. Sai cosa, Emiliano, dico al mio amico, riflettendoci. È vero, io sono un bravo uomo e cerco sempre di fare del bene. Ma per essere ripagato da quello lassù, questa volta mi sarei accontentato anche di qualcosa di meno del meccanico di Mark Cavendish. Voglio tornare a Zanzibar, perché lì si vive meglio, perché lì sono con te, anche se mi capisci a stento, anche se il mondo non è poi così minuscolo. Ovviamente imbraccia la sua bicicletta Riccardo, anche se non è vestito da ciclista e non è su una strada. È in un locale che credo sia un bar o un ristorante o forse il bar di un albergo. Lui infatti è in divisa da cameriere o da receptionist, ce lo dirà meglio lui, e tiene questa bici che insomma non è la bici di Cavendish, però sembra una bici con tutti i sacri crismi. Pronto Riccardo, buongiorno. Ciao Matteo, come stai? Buongiorno, bene. Noi ci siamo già sentiti, Riccardo, vero? Tu lavori... È la terza volta che ci sentiamo. Tu sei un affezionatissimo. Ricordami le tue storie, Riccardo. Una su sugli angeli tempo fa. Beh, come dimenticarla, quella della signora che vive, che sta nella stanza d'albergo, sente gli angeli cantare. E l'altra invece? E l'altra sul fornaio che dice grande, grandissimo a tutti. Certo, grande, grandissimo, me lo ricordo. Come sta il fornaio? Ah, sta benissimo, guarda. Quando passa, entra. Comunque, guarda, risentirti, come dicevano una volta i vecchi qui delle mie parti, mi migliora la giornata. Che significa me la migliora la giornata? La migliora, sì. Beh, sì, ma tu lo sai che non è che devi per forza chiamarmi, puoi anche ascoltare la radio in generale. Per... Sì, ma ti ascolto. Okay. Sei al lavoro adesso, Riccardo? No, sono a casa, sono a casa. Perché ricordami, tu sei receptionist o no, lavori... Faccio il cameriere. Lavori in sala? Ristorante di un albergo a 4 stelle qui in Montecatini. Ok, ok. Perché tu sei però di lì vicino, giusto? Sei di... Beh, Borgo Abugiano, come dimenticarlo? Cioè, nel senso che mi ricordo come ne avevi parlato. È il centro della Toscana. Provincia di Pistoia. Di Pistoia, sì. Vedi? Che è la provincia un po' più bistrattata della Toscana, devo dire. È vero, ma è una zona... sta ottenendo un rilancio. Sì, guarda, c'è un'altra zona, la Lunigiana anche un po' sottovalutata della Toscana. Sono delle zone che si conoscono poco, ma attenzione, dico solo, attenzione Lunigiana, attenzione provincia di Pistoia. Delle bellezze che ci siamo tenuti strette fino ad ora, ma va bene, le renderemo pubbliche. Perfetto, l'ente del turismo della Toscana ringrazia e noi andiamo avanti e parliamo invece di questo tizio che ti appare. Allora, tu innanzitutto voglio capire, tu sei super, non ho capito se sei super credente, nel senso che proprio parli di uomo della provvidenza, oppure te la giochi, cioè che quando, insomma, quando capita, eccolo qua, dai, è arrivato, ce l'ha mandato il Signore, invece quando non capita. Sì, no, non sono un prete, Ok, comunque, no, vabbè, quello si vede anche da come sei vestito, non sei un prete, dalla foto. Però comunque, ora, la mia vita, come ne racconto, non è sempre stata una pianura, no? Cioè, ho avuto anche io le mie salite. Ok. Però anche nei momenti peggiori io mi sono accorto che c'è sempre qualcuno che mi fa vedere una via di fuga, una salvezza. Ok. E quindi credo alla mia maniera. Insomma, credi che ci sia qualcuno, qualcosa di più grande che in qualche modo ti sta vicino? Via, detta sì, male. Sì. Tu hai uno straccio di fidanzata, Riccardo? Non perché, diciamo, tu non abbia nessuno vicino. Tu non mi ricordo più se hai una fidanzata o una moglie o no. No, sono separato. Sei separato, ho un perfetto. Un matrimonio alle spalle, sì, ho una figlia di 12 anni, Martina. Ah, ok, quindi, insomma, 12 anni. Tu ne hai, scusami? 40 tondi. Ne hai 40 tondi. Quando faccio queste domande, mia mamma ogni tanto che ascolta dice: la smetti di farti i fatti della gente, chiedi quanti anni hanno, se hanno dei figli. Riccardo, io devo salutarti perché cominciamo ad avere un po' meno tempo perché c'è tanta pubblicità da raccontare, quindi devo salutarti, ma ti ringrazio per la storia e aspetto, a questo punto aspetto Non c'è tre senza quattro. Speriamo, dai. Speriamo. Sta a te. Va bene, grazie Riccardo, in bocca al lupo. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. Adesso vi racconto una storia che è simile a quella di Riccardo. Ci sono due persone che vivono la stessa situazione, una situazione di emergenza, ma la interpretano in maniera diversa in base alla propria fede religiosa oppure no. La storia è questa qui. Ci sono due tizi che siedono insieme al bar in un posto sperduto, selvaggio, in Alaska. Uno dei due tizi è credente, l'altro invece è ateo, e stanno discutendo sull'esistenza di Dio. E lo fanno con quell'intensità particolare che si stabilisce di solito più o meno dopo la quarta o la quinta birra. L'ateo a un certo punto dice: guarda, non è che io non abbia mai ragionato sul credere oppure no, ho avuto anche io a che fare con quella roba lì di Dio e della preghiera. Ad esempio, proprio un mese fa, mi sono trovato lontano dal campo in una terribile tormenta e mi ero completamente perso. Non riuscivo a vedere niente. C'erano 45 gradi sotto zero. E allora a quel punto ci ho provato. Mi sono buttato in ginocchio nella neve e ho urlato: Dio, se c'è un Dio, mi sono perso nella tormenta e morirò tra poco se tu non mi aiuterai. A questo punto nel bar ovviamente il credente guarda l'ateo con un'aria perplessa e gli dice: vabbè, allora adesso dovrai credere, no? Insomma, sei ancora vivo oppure no? E l'ateo, alzando gli occhi al cielo, lo guarda e gli dice: No, semplicemente è successo che a un certo punto una coppia di eschimesi che passava di lì per caso mi ha indicato la strada per tornare al campo e sono ancora vivo. Ecco, il meccanico di Cavendish è solo un tizio che passa di lì per caso e se non fosse passato lui sarebbe passato qualcun altro ad aiutare i due ciclisti sventurati? Oppure lui è una emanazione di una divinità superiore che tutto vede tutto conosce e che decide di salvare lo sventurato mandandogli qualcuno che gli dà una mano. Questo noi non lo sapremo mai. O meglio, chi è credente la penserà in un modo e chi non lo è attribuirà tutto al caso o alla statistica, che permette di calcolare con una certa dose di certezza quante persone possono passare su un tratto di strada in cui si trova una persona con la gomma forata. E in fondo entrambe le tesi possono sopravvivere e convivere senza troppi problemi, a patto che uno non consideri l'altro un pirla e viceversa. E alla fine, dalla storia di Riccardo, ho capito che, primo, il ciclismo è uno sport per gente che vuole sudare. Secondo, il meccanico di Cavendish assomiglia molto a uno di quegli angeli disegnati sulla Cappella Sistina. 3. Maremma sudicia è l'espressione più corretta per esprimere il proprio disappunto in situazioni di stress. 4. Far fare le cose a chi le sa fare è sempre meglio di provare a farle a caso. E soprattutto 5. Non avere il telefonino ti obbliga comunque ad avere più rapporti con le persone che incontri per strada e meno con quelle che già conosci. E forse non è poi così un gran male. Vi ricordo che tutti i brani che mandiamo, anche Mr. Jones, che è un pezzo di qua, anni 90, cos'era, 90, 95, 96, forse prima, dei Counting Crows, lo trovate sul nostro sito, alla nostra pagina Voi Siete Qui, Radio 24, dove esattamente trovate la foto che racconto tutti i giorni, e c'è di fatto la playlist che Tiziano Bonini sceglie per ogni puntata. Quindi se volete sapere i titoli delle canzoni che io non dico mai, li trovate lì. Li trovate anche i podcast nella sezione archivio, trovate in streaming tutto quello che abbiamo fatto in più o meno negli ultimi mesi. Le ultime 5 puntate invece sono scaricabili. Rispondo a un messaggio che arriva al volo di Marco, che mi dice: ciao Matteo, sono accreditato per il live di Genova del 5 ottobre, posso entrare anche prima per visitare il salone? L'accredito ti permette di entrare al salone, quindi vai lì e poi dici: guarda, ho l'accredito di Radio 24, insomma, in qualche modo. O se no chiama Elena Ligios. Io faccio sempre così: arrivo, dico, chiamo la Ligios, Ligios, non riesco a entrare, lei arriva e in qualche modo mi fa entrare. Prova anche tu, se ce l'hai il numero, chiama la Ligios. Grazie a Pietro Lacorte, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Margherita Ina, grazie soprattutto però a Riccardo, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Alessandro, vivo a Melzo in provincia di Milano, la storia di domani è la mia e parla del mio incontro insperato con la squadra del Sunderland. Questa è la mia storia ed io sono qui.